Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Come potrete sicuramente immaginare, moltissimi giornali si sono occupati del terribile attentato di mercoledì a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo. Se ne sono occupati perché da molti viene considerata proprio un attacco all'Europa oltre che alla Francia. Non mi soffermo quindi su questi commenti, anche perché credo che ognuno di noi a distanza poi di qualche giorno abbia avuto modo di riflettere su questo terribile atto di terrorismo, e credo che appunto sia poi una questione di tutti noi, di coscienza, di considerare questa terribile evenienza, che uno va al mattino a lavorare e a un certo punto entrano due giovani armati di Kalashnikov e sparano così alla cieca. Ma detto questo, quindi passiamo ad argomenti più strettamente istituzionali, più strettamente legati al futuro dell'Europa dal punto di vista economico, finanziario e politico, come facciamo sempre, e cominciamo quindi dalla BBC, perché il Premier Cameron, che ricorderete abbiamo nominato anche nella rassegna stampa di sabato scorso, è intervenuto a uno dei più importanti, più famosi, più seguiti talk show politici della BBC, all'Andrew Marrow Show, appunto della rete nazionale pubblica britannica, per spiegare che in realtà lui sarebbe felice di poter anticipare lo svolgimento del referendum sull'appartenenza all'Unione Europea, che attualmente è previsto per il 2017. Ricorderete appunto che alcuni ministri del suo governo, secondo indiscrezioni del Times, vorrebbero anticipare questo referendum, un po' perché la questione è comunque molto dibattuta e 2 anni sono tanti, e un po' perché mentre i conservatori sembrano dibattere al loro interno, questo è un po' il timore che serpeggia tra alcuni membri del governo, ci sono partiti, UKIP in testa naturalmente, che cavalcano l'onda anti-europeista del paese e che quindi rischiano nelle elezioni di quest'anno, elezioni politiche di quest'anno, di avere molti voti. Da qui le pressioni su Cameron per anticipare questo referendum, e sarebbe appunto disposto, vedremo. Passiamo a un altro lutto di questa settimana, quello di Pino Daniele. Naturalmente se ne sono occupati un po' tutti i giornali europei, perché Pino Daniele era molto conosciuto anche fuori dall'Italia, nonostante tanta della sua produzione musicale sia stata in napoletano, e quindi lo hanno ricordato in Germania, per esempio la Süddeutsche Zeitung cerca appunto, trattandolo più da cantautore europeo che non solo italiano, ma anche lo Spiegel, che ha poi ricordato come una delle sue caratteristiche fosse quella di aver fatto poi incursioni in tutti i generi musicali, non certo solo nella canzone napoletana intesa in senso classico, quindi nel jazz, nel blues e nel rock, fin questo dall'inizio della sua carriera negli anni 70. Naturalmente uno dei temi principali è stata ancora una volta la Grecia. Sapete che ci avviciniamo alle elezioni, alla data delle elezioni anticipate in Grecia, previste per il 29 di gennaio, e per esempio, scusatemi, il 25 di gennaio, mentre il 22, faccio sempre un po' di confusione, il 22 c'è l'importante riunione della BCE, il 25 queste elezioni anticipate in Grecia. La Hannoverische Allgemeine Zeitung, che è un quotidiano tedesco, ha raccolto le opinioni del vice cancelliere, quindi vice di Angela Merkel e ministro dell'economia tedesca, Sigmar Gabriel, che ha spiegato, come ha cercato di ribadire, che la Germania vuole che la Grecia resti nell'area euro. Perché questo desiderio di, diciamo, excusatio non petita? Perché, lo ricorderete tutti, ne abbiamo dato conto anche qui a Radio 24 la settimana scorsa, lo Spiegel, che è il più importante settimanale tedesco, aveva detto che secondo quanto risultava appunto ai suoi giornalisti, la Germania avrebbe cominciato a considerare accettabile l'uscita di Atene dall'eurozona, quindi non dall'Unione Europea ma dall'Unione Monetaria. Quindi sarebbe un ritorno della Grecia all'uso della dracma, un po' come se noi ricominciassimo a usare la lira. Il vice di Angela Merkel, quindi il numero 2 del governo tedesco, ha sottolineato che l'eurozona negli ultimi 2 anni è diventata molto più stabile e per questa ragione non possiamo essere ricattati, ma per questo ci aspettiamo anche che il governo greco, indipendentemente da chi lo guiderà, rispetti gli impegni presi con l'Unione Europea. Diciamo che la cosa buffa è che lo stesso argomento, cioè il fatto che l'Unione Europea, l'eurozona negli ultimi 2 anni sia diventata un pochino più stabile, veniva usato nelle indiscrezioni raccolte dallo Spiegel proprio proprio per spiegare che la Germania sarebbe disposta ad accettare quello che resta un rischio, il rischio appunto dell'uscita dall'eurozona della Germania. A proposito della stessa questione, citiamo anche Financial Times, perché secondo Financial Times c'è effettivamente questo dilemma che agita Angela Merkel in vista di queste famose, famigerate elezioni greche del 25 gennaio, perché Syriza, il partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras, il più critico dei politici greci e non da ieri sulle politiche di austerity imposte alla Grecia, è sì in testa, ma dovrà anche, questo appare dai sondaggi, dovrà formare un qualche tipo di coalizione, e quindi Angela Merkel non sa se è il caso di schierarsi già contro Syriza o magari ammorbidirsi. Insomma, ci sono questioni economiche certo alla base, la Germania non vuole perdere la faccia, scrive Financial Times, fino a ieri ha sostenuto con forza, con inflessibilità la linea delle austerity, ma vuole anche scongiurare in realtà, secondo Financial Times, questo rischio di uscita dall'eurozona, e non tanto perché l'eurozona, come spiegava il vice di Angela Merkel alla Hannoverische Allgemeine Zeitung, e non tanto perché l'eurozona potrebbe permettersi tecnicamente un'uscita della Grecia, ma perché è proprio sarebbe un bruttissimo segnale di un parziale fallimento di questo grande progetto che è quello dell'Unione Europea e della moneta unica. Sempre Financial Times si è occupato dell'altra grande questione, che è come si deve muovere la BCE. Ricorderete tutti l'intervista che Mario Draghi ha rilasciato a Handelsblatt, da una parte per tranquillizzare tutti e dire: io resto governatore della BCE fino al 2019, fino alla fine del mio mandato, non ho intenzioni politiche, non ho ambizioni politiche legate alla presidenza della Repubblica Italiana, ma soprattutto ha parlato di quantitative easing e di altre politiche che potrebbero essere presto messa in atto, e c'è questa riunione appunto del 22 gennaio del consiglio direttivo dove potrebbero essere decise alcune cose importanti, perché già in quell'intervista a Handelsblatt si parlava del pericolo deflazione che, come sapete, mercoledì, e ne hanno parlato tanto i giornali giovedì, è stata ufficialmente certificata da Eurostat, cioè la zona euro è ufficialmente in deflazione, i prezzi scendono. E allora scrive Financial Times: il tentativo della BCE di rivitalizzare l'economia dell'eurozona con il quantitative easing sarebbe destinato al fallimento. È una previsione che emerge da un sondaggio condotto dallo stesso Financial Times tra 32 economisti, e qui viene un po' di nuovo anche da sorridere, perché sapete, l'economia non è una scienza esatta, e proprio questa settimana da Boston Thomas Piketty, questo controverso economista francese che ha scritto un saggio divulgativo chiamato Il Capitale, ha esordito tutti i suoi colleghi economisti a fare molto mea culpa sulle previsioni sbagliate, o addirittura le previsioni, le analisi non fatte o magari non divulgate, insomma le responsabilità che gli economisti hanno avuto, in particolare nel non riuscire a prevedere la grande crisi economico-finanziaria innescata, si intende ormai convenzionalmente, dal fallimento della banca d'affari Lehman Brothers americana nel settembre del 2008. Vediamo, visto che abbiamo parlato di Grecia, un quotidiano greco, e come potete immaginare lo facciamo grazie a presseurope.eu, quel sito meritevolissimo e completamente indipendente che si fonda su pochi contributi europei e soprattutto sui contributi delle persone, magari piccoli contributi ma tanti, quindi quel mini crowdfunding che ha salvato tante aziende, tanti siti di utilità pubblica. Ecco, su questo si regge presseurope.eu, e questa settimana per esempio cita un articolo di Katimerini, che è un quotidiano greco, che parla appunto delle elezioni anticipate. Scrive Alexis Papacelas: a tutti noi piacerebbe avere una sfera di cristallo che ci mostri che cosa accadrà alla Grecia nei prossimi mesi. Alcuni prevedono che dopo 70 anni all'opposizione la sinistra finalmente conseguirà una vittoria, altri pensano che la sinistra al governo potrà durare soltanto poco, e altri ancora che dalle elezioni anticipate del 25 gennaio ci sarà un cambiamento radicale dello status quo. Prevedere con esattezza cosa accadrà in Grecia è diventato sempre più difficile dall'inizio della crisi, e nessun sondaggista esperto può dichiarare di sapere con certezza che cosa accadrà a breve. Se toccasse a me fare una previsione, direi che prima o poi nel 2015 la Grecia sarà governata da un'ampia coalizione incaricata di salvare il paese, quindi un'altra grossa coalizione. Anche questo, se pensate, ci sarebbe un po' l'ironia della sorte della storia: anche nella grande bacchettatrice, la Germania, c'è una grossa coalizione che però ha funzionato, quindi forse questo è il destino della Grecia. Naturalmente anche di queste questioni parla anche questa settimana Der Spiegel, che si chiede quali siano veramente le intenzioni di Alexis Tsipras, anche se lui le ha dette molto chiaramente: noi non vogliamo uscire dalla zona euro, vogliamo solo cambiare le politiche di austerity. Ci sarebbero tante altre segnalazioni sulla Grecia e su altri temi, vi segnalo solo un'ultima cosa di Euronews, che il 19 gennaio il ministro degli esteri europeo, che è la nostra tra virgolette Federica Mogherini, ha già detto che all'ordine del giorno ci sarà la questione del terrorismo e del terrorismo islamico, e si parlerà anche del tremendo attentato di mercoledì scorso a Charlie Hebdo. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.